Well, did you get the picture there? The taxi driver thought that Sarah was Lorenzo's fiancée. Let's look at some of the other language. In response to the driver's question about Sarah's nationality, Lorenzo said, Non è americana. È inglese. She's not American. She's English. Later he said, Non sono di Firenze. Sono di Greve in Chianti. I'm not from Florence. I'm from Greve in Chianti. To make a negative sentence in Italian, you add non just before the verb. Listen to these examples. If you hear the question, Sara è americana? The answer should be no, non è americana, è inglese. But if you ask the same about Lorenzo, the question will be Lorenzo è americano? Because you need the masculine form of the adjective. The complete answer should be no, non è americano, è italiano. No, he's not American, he's Italian. Note that if the nationality adjective for English is used, it's inglese, whether it refers to a masculine or feminine noun. Sara è inglese. Lorenzo non è inglese. And the same goes for all adjectives ending with an e sound. They have the same form for both the masculine and the feminine. E ora tocca a lei. And now it's over to you. E ora tocca a lei. You'll hear some questions about Sarah and Lorenzo. Answer in the pause, and after you hear the correct answer, repeat it. Un esempio. Lorenzo è di Firenze? No, non è di Firenze, è di Greve in Chianti. And now it's over to you. E ora tocca a lei. Sara è di Firenze? No, non è di Firenze, è di Cambridge. Sara è americana? No, non è americana, è inglese. Lorenzo è inglese? No, non è inglese, è italiano. Lorenzo è americano? No, non è americano, è italiano. Sara è italiana? No, non è italiana, è inglese.